Beppi Nostro, come lo abbiamo chiamato e come lo hanno chiamato per tanti anni Giuseppe Sarto, santo di tutti, nell'anno del suo centenario. Questa è una settimana molto importante nel calendario delle celebrazioni ufficiali del centenario della morte, per il doppio appuntamento con il convegno internazionale di studi sulle attività e sulle scelte di Pio X, a partire da una domanda: riforma del cattolicesimo? È una domanda che ci si sta facendo anche in questi giorni, in queste settimane, a proposito di Papa Francesco. Bene, una domanda che ritorna anche guardando ad un secolo indietro, a questo Papa veneto di origine, ma davvero internazionale. Tanto internazionale che la sua opera guardò anche con interesse alle popolazioni di altre parti del mondo, come ci spiega la professoressa Paola Gallo. Questa parte dello studio di Papa Pio X si verificò soprattutto nel momento in cui fu patriarca di Venezia. Questo gli permise di frequentare, di conoscere proprio nella Venezia stessa un'apertura verso l'est e soprattutto verso i popoli balcanici, che facevano parte dell'origine culturale della città stessa. Di conseguenza pose particolarmente l'attenzione sulle tradizioni cristiano e anche cristiano-cattoliche, appunto, dei popoli slavi. Una particolare attenzione però la pose anche per la cultura dei popoli dell'America Latina, soprattutto Amazzonia e popolazioni disagiate. E questo, gli indios per esempio, questo gli permise successivamente di diventare, venne nominato appunto il patrono degli emigranti trevigiani che in un determinato momento storico si trovarono appunto a dover emigrare nell'America Latina per cercare lavoro. Come riassunto, la figura propone anche un altro aspetto che può essere una curiosità, se vogliamo, una curiosità di cultura artigianale. Papa Sarto aveva un'attenzione così un po' personale per l'arte del merletto, che è una curiosità tipicamente veneta, e questa attenzione per l'arte del merletto nasceva, secondo lui, anche da un'attenzione artistica verso gli arabeschi che il merletto propone come proposta grafico-espressiva. E una cosa molto interessante è che permise, grazie anche a un patrocinio personale, la costruzione, il patrocinio, se vogliamo, di una fabbrica di merletti importantissima per poter salvare molte ragazze, non solo dell'entourage veneziano, diciamo, ma anche di altri luoghi, dalla fame e dalla disoccupazione. Quindi univa, se vogliamo, la propria cultura personale, la propria passione, con una potenzialità economico-sociale decisamente attuale anche adesso. E dunque dalla figura, dall'opera di San Pio X emergono anche aspetti curiosi come questo. Ringraziamo la professoressa Paola Gallo dell'Istituto Pio X di Treviso. Dalla prossima puntata della nostra rubrica daremo conto ampiamente di quanto il giorno 24 e 25 di questa settimana viene detto in occasione appunto del convegno internazionale di studi. L'avviso che sto per dare non vale per chi ci ascolta nella puntata della domenica. Per chi ci ascolta invece prima, ricordo che appunto gli eventi, le due giornate di questo convegno, giovedì 24 a Ca' dei Carraresi, venerdì 25 allo Studium Generale Marcianum di Venezia, saranno integralmente in diretta video streaming sul sito centenariopiox.it e sul sito bluradioveneto.it. Per tutti gli altri, appuntamento in questa rubrica la settimana prossima per tornare sui contenuti degli importanti relatori che parleranno delle attività e delle scelte di Pio X nella riforma del cattolicesimo.